t'ho incontrata che eravamo ragazzini, coi grilli per la testa, mica tutti sti casini. E il giorno che t'ho raccontata dentro casa, papà era così fiero e mamma preoccupata. E poi una notte in bianco dopo l'altra, fino all'alba, senza cellulare, a scriverti su carta. M'hai fatto da migliore amica e da parente stretto, la cura per ogni ferita, a volte ci ho sofferto. E non ti nego che a pensarti così spesso mi ci sono ammalato, ma ho buttato via il referto, perché lasciarti indietro non è mai stata un'opzione. Ora ne ho 30 e stiamo qui, dimmi se non è amore. E se mi accendo un'altra sigaretta, come sempre ne rubi metà. Ma tanto poi, se mi perdoni tutta questa fretta, per me puoi fumarne quante vuoi. Lasciatemi cantare con la birra e le cicale. Ci siamo promessi di rincorrere i sogni, ma li abbiamo persi per un pugno di soldi. Lasciatemi cantare, che fuori tutto può crollare. Ci siamo protetti dagli sguardi degli altri, e fa quasi ridere ora che siamo grandi. Noi, ora che siamo grandi. Noi. E se mi accendo un'altra sigaretta, sempre ne rubi metà. Ma tanto poi, se mi perdoni tutta questa fretta, per me puoi fumarne quante vuoi. Lasciatemi cantare con la birra e le cicale. Ci siamo promessi di rincorrere i sogni, ma li abbiamo persi per un pugno di soldi. Lasciatemi cantare, che fuori tutto può crollare. Ci siamo protetti dagli sguardi degli altri, e fa quasi ridere ora che siamo grandi. Noi. E fa quasi ridere ora che siamo grandi.